L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddie e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta come ogni settimana con i nostri appuntamenti in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, per avere tante voci diverse per un percorso comune che è quello europeo. L'attualità politica, economica dell'Europa viene raccontata giorno per giorno qui all'Altra Europa, qui a Radio 24. Noi il sabato con l'Altra Europa cerchiamo anche altre sfumature, altri punti di vista. Le coordinate per trovarci anche sulle piazze virtuali: Euronet Plus R24 oppure Federico Taddia. Ci trovate sia su Twitter che su Facebook, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio? Beh, oggi partiamo qui, partiamo dall'Italia e partiamo insieme ai briganti. Amma usata, chitarra e tamburo, da questa musica s'atta cagnò. Simma briganda, facimma paura, e cascuppetta pulimma canta, e cascuppetta pulimma canta, e fa! Il turismo di comunità praticato dalla cooperativa I Briganti di Cerreto, siamo in provincia di Reggio Emilia, è stato incluso nei 20 casi di innovazione e buona pratica a livello europeo. Il Centro per la Strategia e la Valutazione dei Servizi di Kent nel Regno Unito ha svolto questa ricerca per conto della Commissione Europea, ha selezionato 20 progetti e ce n'era uno anche italiano ed è appunto questo progetto innovativo. Si parla di turismo di comunità in una piccolissima località in provincia di Reggio Emilia, siamo sugli Appennini emiliani, e capiamo cosa hanno combinato i briganti. Con noi c'è Renato Farina. Ciao Renato, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Da un piccolo borgo dell'Appennino emiliano all'Europa, che viaggio avete fatto? Beh, un viaggio che all'inizio non ci aspettavamo sicuramente di arrivare fino all'Europa. Uh-huh. Viaggio per adesso di grande soddisfazione, di aver fatto nascere un'impresa in un luogo difficile dove prima bisognava solo andare via e averla trasformata anche in un'impresa prestigiosa, perché ha questi riconoscimenti, ha questi valori che ci vengono riconosciuti addirittura dall'Europa. Un paese di 80 abitanti e voi avete inventato questa cooperativa che ha esaltato il concetto di turismo di comunità. Di cosa si tratta e perché secondo te è piaciuto così tanto in Europa? Ma di cosa si tratta? Si tratta di una cosa relativamente semplice, perché è stato rimettere insieme le cose che si sono sempre fatte su questo territorio, i mestieri che erano stati dismessi dopo la guerra perché allora non più ritenuti economicamente interessanti e forse neanche perché non erano più di moda, andava di moda andare a vivere in città. Oggi il mondo è cambiato, le persone cercano un contatto con la natura, cercano dei contatti veri con luoghi dove le cose siano rimaste integre. E Cerreto Alpi è questo. Cerreto Alpi è un piccolo paese che ha una grande storia e questa grande storia, questa grande identità la condividiamo assieme ai turisti che ci vengono a trovare. È proprio un turismo sostenibile, un turismo fortemente legato al territorio, probabilmente sono stati questi gli elementi che sono piaciuti all'Unione Europea, insomma, per darvi questo riconoscimento. Voi chi chiamate? Nel senso, il vostro turismo è un turismo che si rivolge all'Europa o sono soprattutto italiani che trovano in questo borgo uno spazio di riflessione, uno spazio di incontro, uno spazio anche dove di fatto rivivere antichi mestieri, rivivere antiche radici? Oggi sono turisti italiani, non siamo ancora strutturati per ospitare dei turisti stranieri, ma spero lo saremo presto. E sono turisti italiani che vengono dalle città intorno a noi, un po' da tutte le città, sono arrivati anche da città lontane come da Roma, come da Firenze, come da Milano. Ecco. Sono turisti che, come hai detto tu, cercano qualcosa di vero, cercano una natura che non è scimmiottata o preparata ma è una cosa vera, è un luogo vero. Oggi io sono qua in mezzo al bosco a 1200 metri, la natura ha dipinto i nostri boschi con migliaia di colori. Noi abbiamo trasformato cose che venivano viste inizialmente come dei problemi anche in risorse turistiche. Qui si può conoscere il lupo che vive nel Parco Nazionale dell'Appennino Toscano-Emiliano. Qua si possono raccogliere le castagne, ma si possono anche assieme a noi cucinarle, si possono mangiare, si può trovare dei valori molto belli, ecco. Le nostre case non hanno il giardino, hanno l'orto per i turisti a disposizione. Come mai i briganti come simbolo e come nome della vostra attività? Noi qui abbiamo ripreso la storia del nostro paese, siamo in un passo, il passo del Cerreto, che divide la Toscana dall'Emilia Romagna e ha diviso nella storia sempre, diviso ma anche unito queste popolazioni, di cui passavano prodotti molto importanti, e nel 1600 qui un gruppo di briganti capeggiati dal Moncigolo ha dettato legge per tanto tempo, ma erano briganti che con il nostro paese avevano un buon rapporto, che garantivano la sopravvivenza degli abitanti. Allora abbiamo pensato che fosse bello poter oggi accompagnare dei turisti rimettendo in campo i briganti che sono stati qua, insomma. www.ibrigantidicerreto.com il sito per conoscere questa attività segnalata tra le 20 più innovative, tra gli esempi di buone pratiche europee. Grazie davvero a Renato Farina, salutaci tutti gli altri briganti. Sarà fatto, grazie a voi, arrivederci a tutti gli ascoltatori. Ciao, buon sabato. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Diventare Europa, dalla solidarietà all'integrazione europea dei Balcani e della Turchia. Nel 2013, anno dell'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, quale 28esimo Stato membro, Osservatorio Balcani e Caucaso e 10 partner europei si sono impegnati a diffondere la conoscenza e a stimolare il dibattito pubblico su Balcani e Turchia attraverso il progetto sostenuto dalla Commissione Europea e dalla Provincia Autonoma di Trento, Racconta l'Europa all'Europa. Nell'evento finale, che si tiene il 16 novembre all'Università di Bergamo, alcuni esperti internazionali discuteranno del processo di allargamento dell'Unione Europea a sud-est, della democratizzazione e della stabilizzazione dei Balcani e del rapporto tra Unione Europea e Turchia. Il tutto in questo contesto di profonda crisi economica e politica. Per saperne di più, balcanicaucaso.org/appuntamenti. L'altra Europa. Thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be... Sono amante del pesce e tu... E sotto un'immagine c'è, cioè, un pesce su cui hanno messo una ragazza oggettivamente molto bella, oggettivamente molto nuda, e uno si chiede, ma è proprio necessario? Sicuramente cattura l'occhio, sicuramente l'attenzione viene calamitata, però l'uso della donna, insomma, non è dei più dignitosi, benché la campagna sia una campagna con, insomma, a cui uno non... certo, siamo amanti del pesce anche noi, siamo per la difesa dell'ambiente, siamo per la pesca sostenibile, siamo anche dell'idea che certe campagne possano avere un uso più dignitoso e moderno dell'immagine della donna. Questa campagna capeggia a Bruxelles, è stata fatta ed è stata messa in mostra, fa parte di una mostra nei pressi della sede proprio della Commissione Europea, e c'è anche il logo della Commissione Europea sotto questo manifesto. E tutto ciò l'abbiamo scoperto grazie a una segnalazione di EUnews, e con noi c'è uno dei collaboratori di EUnews, il primo giornale online di notizie europee con sede a Bruxelles. Diamo il benvenuto ad Alfonso Bianchi. Ciao Alfonso. Buongiorno, buongiorno. Ti abbiamo spedito anche a vedere questa mostra, hai fatto il nostro inviato speciale tra le fotografie. Di cosa si tratta? Beh, in pratica si tratta di una campagna che è partita nel 2009 in Inghilterra con l'idea di cercare di condizionare la politica comune di pesca dell'Unione Europea, la politica che gestisce quanto pesce si può pescare, quanti sono le quote, quali sono le regole. La tecnica scelta è quella della provocazione, quindi foto di nudi di donne, attrici, modelle, ma a onor del vero non solo, perché ci sono anche molti uomini, c'è lo stilista Kenzo Takada, c'è l'attore Ben Kingsley, ci sono Michael Gambon, l'Albus Silente di Harry Potter. Tutti posano nudi con un pesce abbracciato, insomma c'è chi abbraccia un pesce spada, chi un pesce palla, chi un tonno, insomma hanno scelto questa forma molto provocatoria e adesso sono arrivati nella Commissione Europea proprio quando il testo della politica comune della pesca è in discussione e sta per essere approvato. Ok, quindi insomma c'è una sorta di par condicio nell'uso delle immagini, questo già ci tranquillizza di più. Sono stati giorni importanti, appunto, come ci hai ricordato, per quello che riguarda la pesca, perché finalmente, dopo tante parole, sono state prese delle decisioni. E ci puoi fare una sintesi di quello che è accaduto? Sì, in pratica la nuova politica comune della pesca, quella che gestirà la pesca nei prossimi 7 anni, dal 2014 al 2020, era stata approvata il 6 febbraio scorso con un'ampia maggioranza del Parlamento. Adesso però sono stati approvati questa settimana, che c'è stata la plenaria del Parlamento a Strasburgo, diciamo così, i sistemi operativi per mettere in pratica questa pesca e soprattutto il fondo che verrà utilizzato per mettere in atto la pesca comune, un fondo di quasi 7 miliardi. Che cosa in sintesi farà innanzitutto questa nuova politica comune? Abbasserà le quote di pesca che si potranno fare nei vari stati. Questo perché, secondo i dati della Commissione, più dell'80% degli stock ittici del Mediterraneo è sottoposto a pesca intensiva. Sì. Il Parlamento, la Commissione e il Consiglio chiedono che queste quote gli Stati le abbassino per fare in modo che il pescato ogni anno non sia ad esempio superiore alla capacità riproduttiva dei pesci, in questo modo per garantire la sopravvivenza delle specie. E poi sono state prese anche altre misure, per esempio un sostegno ai giovani per fare in modo che i giovani possano ricevere dei sussidi e non abbandonare questo mestiere che non è un mestiere molto facile da tramandare, diciamo così, di padre in figlio, quindi così con dei sussidi statali si può aiutare anche i giovani a non abbandonare questo tipo di mestiere. Do un po' di coordinate, intanto il sito web della mostra fishlove.co.uk, abbiamo pubblicato la foto e i link sia su Facebook sia su Twitter, sulle mie pagine personali, oppure direttamente sul portale di eunews.it. Alfonso, noi seguiamo molto eNews perché spesso ricco di informazioni che non si trovano anche su altre testate. Ci vuoi raccontare la storia di questo portale, di questo giornale online? Chi siete? Sì, praticamente questa è stata un'idea di Lorenzo Robustelli, un giornalista di vecchio corso che è stato già corrispondente dell'APCOM, responsabile della redazione romana dell'APCOM, adesso è il corrispondente qui per il secolo XIX e per il giornale del gruppo Espresso. La sua passione per l'Europa e l'Unione Europea lo ha portato un anno fa a fondare questo progetto, questo sito, che si occupa esclusivamente di Unione Europea e di Europa. Quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno è raccontare l'Unione Europea nel suo insieme e non soltanto nei macro temi. Non a caso il nostro slogan è l'Europa oltre lo spread, cioè l'Europa non è soltanto spread, l'Europa non è soltanto crisi, la Merkel e quant'altro. Quello che cerchiamo di fare quindi appunto è seguire le istituzioni europee da vicino, quindi il Parlamento europeo, il Consiglio UE e la Commissione europea, facendo un aggiornamento chiaramente quotidiano di tutto quello che si muove nelle istituzioni, cercando di seguire così lo svilupparsi delle direttive e delle leggi europee dalla nascita alla fine alla definitiva approvazione. Cercando di uscire un po' dal burocratese. Sì, cercando di raccontarlo in una maniera anche interessante, cosa che spesso è difficile con l'Unione Europea perché non è chiaramente un tema divertentissimo e molto spesso si tratta anche di argomenti noiosi, ma sono comunque argomenti che interessano tutti noi e spesso grazie anche a queste iniziative come Fish Love riusciamo a trovare un'angolatura particolare e raccontarle e renderle anche un po' più interessanti. Alfonso, prima di salutarti, sicuramente in queste ore hai seguito il Consiglio europeo e non ti chiedo di fare una sintesi di quello che si è vissuto e di quello che è accaduto, però ti chiedo di farmi una sintesi invece dell'umore che si è respirato, cosa hai colto, che sensazione hai avuto così a pelle? Un consiglio molto particolare, perché doveva discutere di unione bancaria, doveva discutere di immigrazione, doveva discutere di agenda digitale, però i capi di Stato si sono trovati sul tavolo il tema scontante del data gate. Quindi hanno tenuto tutti il cellulare spento, immagino, in questi due giorni. sì, praticamente questa cosa era uno scherzo ricorrente, a parte quella Merkel che in certo modo ostentava il cellulare. Mm-hmm. Ma per esempio quando c'è stata la conferenza stampa della Merkel, l'ha detto stampa, prima di iniziare ha detto: mi raccomando, spegnete tutti i telefonini e staccate la batteria. Naturalmente risate generali, però per far capire che il tema, diciamo, era forte. Mm-hmm. E non solo, un'altra chicca è che Angela Merkel è arrivata al Palazzo del Consiglio con un'auto targata, non so se casualmente o meno, 007. La foto sta facendo il giro del web fra Twitter e quant'altro. Grazie davvero Alfonso, ci ritroveremo sicuramente qui con te o con alcuni dei tuoi colleghi di eunews.it, e in bocca al lupo e buon lavoro, grazie tante. Grazie a voi. Ciao, buon sabato, ciao ciao. Europost-it. Alla scoperta del POR con un concorso. La Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia ha lanciato il concorso Alla scoperta del POR Lombardia, un concorso per approfondire i temi delle politiche europee e le iniziative che Regione Lombardia finanzia con il POR, il programma operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Possono partecipare tutti gli studenti lombardi, singoli o con la loro classe o gruppo di lavoro, che frequentino il quarto e quinto anno di un istituto secondario superiore o il terzo o quarto anno dei corsi di istruzione e formazione professionale. Il gruppo può essere composto al massimo da 30 studenti. Gli studenti dovranno creare un video o una presentazione multimediale che abbia per oggetto il programma operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che spieghi cos'è, a cosa serve e quali sono le sue ricadute concrete sul territorio. Per iscriversi c'è tempo fino al 30 novembre. Informazioni, schede di iscrizione e liberatorie su ue.regione.lombardia.it. Definiscono un gruppo informale e apartitico, non sono registrati come associazione ma sono assolutamente attivi. Sto parlando di Giovani Italiani Bruxelles, un gruppo di giovani italiani che per vari motivi vivono, lavorano, studiano a Bruxelles e hanno deciso anche di ritrovarsi per scambiare riflessioni, ragionamenti, ma passare anche ad azioni concrete, essere stimolatori di neuroni lì nel cuore europeo. Diamo il benvenuto alla cofondatrice Francesca Minniti. Ciao Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Tu hai fondato questo gruppo insieme a Daniel Puglisi e siete, appunto, come ho detto, siete attivi sia per quello che riguarda le visioni future, avete un vostro manifesto programmatico ricco di stimoli e ricco anche di richieste, ma poi fate azioni concrete, come avete fatto in questi giorni. Chi siete intanto, Francesca? Cosa volete? Allora, come giustamente dicevi tu, Giovani Italiani Bruxelles è un gruppo informale, apartitico e auto-organizzato, e che si è formato all'inizio dell'anno 2013, a gennaio, in occasione delle elezioni politiche europee, nazionali, in Italia. E che cosa è successo? Io e Daniel con alcuni amici ci siamo trovati e ci chiedevamo chi dobbiamo votare, cioè chi sono i partiti politici che devono prendere, diciamo, le nostre richieste di giovani italiani fuori dal nostro paese. Sì. E che, insomma, provano poi a trasmetterle nella vita politica e nelle azioni delle istituzioni in Italia. Cosa è successo? Che a seguito delle elezioni questo gruppo si è ingrandito e ha deciso di continuare questa attività. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di portare visibilità mediatica sulle politiche giovanili e dire che c'è una mancanza di attenzione forte su questi temi. Non si parla mai del ragazzo normale che ha lasciato l'Italia, si parla di cervelli in fuga, etichetta che a noi non piace molto. E pensiamo che insomma tutti quelli che sono partiti in questi anni, anche prima della crisi, sì, abbiano forse qualcosa da dire, possano dare dei buoni consigli anche alla classe politica, che in Italia appunto si rivolge ai giovani solo quando magari ha bisogno di metterli su qualche manifesto elettorale. Francesca, Francesca, ti fermo un attimo, ti chiedo veramente un minuto di pazienza, lasciamo spazio alla pubblicità e poi torniamo insieme a te per parlare di garanzia over 25. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Le coordinate per trovarci in una rete radio24.it oppure euronetplus.eu. Ancora chiocciola euronetplus R24 o chiocciola Federico Taddia se volete incrociarci, incontrarci anche su Facebook e su Twitter, piazze virtuali che tentiamo di aggiornare minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, sia degli ospiti sia degli Europostit, ma tutto ciò lo potete poi ritrovare sui nostri siti dove è possibile anche scaricare le puntate in podcast. Eccoci qua, siamo in collegamento con Bruxelles, con noi c'è Francesca Minniti del gruppo Giovani Italiani a Bruxelles. E Francesca, in questi giorni vi siete fatti sentire a riguardo di garanzia over 25, ci vuoi ricordare che cos'è? Sì, allora, Garanzia over 25 è un appello che abbiamo lanciato due giorni fa in occasione del Consiglio europeo degli ultimi giorni, giovedì e venerdì, e si riferisce a una misura che si chiama Garanzia Giovani, approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo e che deve essere adesso attuata dagli Stati membri. Noi chiediamo che diciamo, per attuare questa garanzia giovani, che adesso magari vi spiegherò che cos'è, si cambi la faccia d'età a cui questa misura, che serve per cercare di fare fronte alla disoccupazione giovanile imperante in Europa, ma che si rivolge a una fascia d'età che secondo il gruppo Giovani Italiani Bruxelles e secondo molti altri gruppi giovanili non corrisponde a quella dei neolaureati italiani o comunque del Sud Europa, perché appunto si riferisce a neolaureati che hanno finito il percorso di studio prima del compimento del 25° anno. Quindi questa garanzia giovani è una sorta di pacchetto che dovrebbe favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli under 25? Esattamente, sì, è una proposta presentata dalla Commissione europea che appunto vuole offrire o un lavoro oppure una offerta di formazione, quindi un altro ciclo formativo, ai neolaureati che si iscrivono nelle liste di collocamento. Perfetto. Che cosa succede? Che però in Italia, e prendiamo l'esempio dell'Italia, ma questo succede anche in altri stati membri dell'Unione, 25 anni come limite, quindi fino a 24, è assolutamente una fascia d'età irrealistica, perché sappiamo bene che il percorso di studi in Italia, anche se uno studente finisce in corso, finisce proprio a 24-25 anni, se non a 26. Quindi la fascia dove la disoccupazione giovanile è molto alta, cioè tra i 25 e i 30, non viene assolutamente toccata. Ecco, ma per fare un esempio pratico, voi questa campagna adesso la state portando avanti a livello italiano o chiedete che questa garanzia sia estesa per tutte le altre nazioni, in tutta Europa quindi? No, noi dall'inizio e già dal Consiglio europeo di fine giugno, quando abbiamo anche incontrato Enrico Letta qua a Bruxelles, con Giovani Italiani Bruxelles, chiedevamo questo adattamento della fascia d'età, perché non è solo l'Italia che ha questa situazione. È chiaro che le politiche che riguardano il lavoro, in questo caso la disoccupazione giovanile, sono poi politiche che si attuano a livello nazionale, quindi è su ciascun Stato membro che poi si deve lavorare per, come si dice qua, implementare, cioè mettere in atto queste politiche che vengono suggerite dall'Unione e poi sta allo Stato membro a realizzarle. Al Consiglio europeo hanno trattato l'argomento o anche voi siete finiti tra gli argomenti dimenticati causa cellulari intercettati? Ma allora, diciamo che nelle conclusioni ci sono due punti brevi, anche abbastanza generali, in cui si ribadisce l'impegno dell'Unione Europea, in questo caso del Consiglio, a considerare come obiettivo chiave della strategia europea per la crescita la lotta contro la disoccupazione giovanile. Poi si parla di questa conferenza di Parigi che verrà, ci sarà in futuro, dove si parlerà più nel dettaglio di queste misure. Diciamo c'è una presa di posizione nuovamente di impegno delle istituzioni europee per combattere la disoccupazione giovanile, ma non è sufficiente. Ci siamo nelle conclusioni, però non in modo dettagliato, ecco. Okay, insomma, c'è ancora lavoro da fare, quindi sì. Non vi manca l'energia e l'entusiasmo, quindi sicuramente ci ritroveremo qui all'Altra Europa. Grazie davvero Francesca, ricordiamo giovanibruxelles.org, il vostro sito, per tutte le informazioni sulle vostre attività. Ciao e buon sabato! Ciao anche voi, grazie. Europost-it. Think European, Act Local. Il 12 novembre si tiene a Bruxelles la conferenza Think European, Act Local, il ruolo degli Stati federali e delle regioni nella strategia dell'Unione Europea per i giovani. Organizzata dal Comitato delle Regioni, la conferenza rappresenta un'opportunità per discutere la strategia europea per i giovani e il contributo alla crescita nell'ambito del programma Europe 2020. Uno degli obiettivi è poi di accrescere la consapevolezza del ruolo e il mandato politico delle regioni per quanto riguarda le strategie europee per i giovani. Per questo, il meeting è rivolto soprattutto a rappresentanti del settore cultura e ricerca delle regioni e dei comuni, a chi si occupa di politiche giovanili a livello nazionale, ma anche locale, ed anche presso le sedi dell'Unione Europea, nonché a funzionari del Parlamento Europeo, della Commissione del Comitato delle Regioni e, ovviamente, anche alle organizzazioni giovanili e ai giovani che vogliono partecipare. Per saperne di più e per registrarsi c'è il sito del Comitato delle Regioni, cor.europa.eu, nella sezione Eventi. C'est un joyeux cycliste qui prenait le départ, le premier sur la piste, il était jamais en retard, les yeux sur le starter. Lo sapete, cerchiamo di avere un approccio che sia reale, che sia critico all'Europa, poi cerchiamo anche di sottolineare quelle che sono le possibilità, quelle che sono le opportunità, le tante opportunità che l'Unione Europea offre, tra le quali ci sono ricerche, sperimentazioni apparentemente visionarie, apparentemente bizzarre, ma che dentro nascondono veramente germogli di piccole rivoluzioni. E questa è uno di quei casi dove, insomma, mi piace raccontare questa Europa. È un progetto europeo, si chiama Cycle Logistics, e ha come cuore, come centro, quello del trasporto delle merci in Europa in bicicletta. Appunto, sembra un'assurdità, sembra una cosa che non abbia poi effetti concreti sulla nostra quotidianità, e invece ci sono sperimentazioni attive in tutta Europa, ci sono già dei risultati e soprattutto ci sono teste pensanti che credono in questa cosa e cercano possibili soluzioni. Do quindi il benvenuto a Michele Ferrari, coordinatore del programma Cycle Logistics per l'Agenzia della Mobilità di Ferrara, perché Ferrara è una delle città europee coinvolte in questo progetto. Benvenuto Michele all'Altra Europa. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, si parla di piste ciclabili, si parla di una nuova pedonalità nelle città, quindi meno auto, più biciclette. Voi arrivate e volete anche trasportare le merci via bicicletta. Di cosa si tratta? Che cos'è questo progetto? Beh, insomma, lei l'ha introdotto bene, è un progetto dell'agenzia Intelligence Europe, Energy Europe, e sostanzialmente ha creduto nella nostra proposta di analizzare e di diffondere informazioni sul trasporto delle merci in bicicletta. La constatazione di base è che nelle nostre città, soprattutto in quelle europee, lasciamo perdere altre realtà internazionali, però il nucleo centrale delle città è stato creato quando ancora le auto non esistevano e i trasporti motorizzati non esistevano, quindi si prestavano bene, diciamo così, a modalità di trasporto sostenibile anche per le merci, carretti con i cavalli, insomma, questo non per sminuire quest'idea. Semplicemente ci sono un sacco di sforzi, alcuni anche obbligatori, che l'Europa impone per migliorare la qualità dell'aria delle città, sì, e quindi anche risparmiare tutti i soldi per la sanità, e anche per insomma c'è questo indirizzo 20-20-20, risparmio energetico, riduzione delle emissioni, energie rinnovabili. Insomma, in questo caso la possibilità di trasportare merci attraverso la bicicletta, sia da un punto di vista privato che fino a grandi aziende di logistica, tramite la bicicletta, poteva poi dare un contributo, un sollievo, diciamo, a questi obiettivi ecologici. E ma di... quando parliamo di merci, cosa intendiamo? Ma insomma, le indagini che noi abbiamo fatto, non esattamente, noi abbiamo raccolto indagini fatte da altri, però esiste una quantità di trasporti merci che in verità trasportano per brevi tratti piccole quantità di merci, diciamo così, situazioni che si presterebbero da un cestino attaccato alla bicicletta fino a proprio dei veri bici a pedalata assistita con un van di carico che può portare anche 2 quintali, insomma c'è una gamma di soluzioni che potrebbe coprire situazioni che per noi sono ordinarie, come portare uno scatolone sull'auto. Ecco, in questo caso potrebbe essere portato, diciamo così, in una bicicletta fatta apposta. Quindi non stiamo parlando di trasporto di posta o di lettere o di buste, è un qualcosa che va al di là del Pony Express in bicicletta così come lo conosciamo. Si parla proprio di brevi tratti, mi sembra fino a 7-8 km, in cui si possono trasportare le merci, quindi combinazione tra vetture che magari arrivano nei parcheggi a ridosso dei centri storici e poi biciclette che trasportano queste merci all'interno, nei singoli esercenti. Sì, esatto, questo è una tipologia, un esempio che si può fare, però è tutto un settore che, diciamo, pur avendo un passato florido, ricco di esperienze in ogni paese, perché una volta, insomma, fino a prima della guerra, questa era un'abitudine comune, condivisa a livello europeo, per delle condizioni anche oggettive di economicità o di semplicità o qualità della vita, insomma, fare quello che chiamano l'ultimo miglio con un mezzo che non sia motorizzato, che non viaggi vuoto, che abbia delle dimensioni, diciamo, accettabili per un centro urbano, che normalmente è un centro storico monumentale, ecco. Mm-hmm. E quindi organizzare delle situazioni che sono molto variabili, perché possiamo ipotizzare alcuni tipi di servizi anche municipali, pubblici, come la pulizia dei giardini, lo svuotamento dei cestini, ad altri che sono quelli che lei ha citato, della trasmissione di piccoli carichi, piccoli pesi. Le nostre poste sono l'esempio, ecco, cioè nei centri storici ancora poter fare delle consegne con le biciclette o queste cargo bike sono molto interessanti, perché offrono, diciamo così, anche un po' di comfort per chi deve trasportare i pesi, che spesso hanno 3 ruote, spesso hanno delle personalizzazioni, insomma. Fino anche i pacchetti, non so, consegna della spesa agli anziani o trasferimento rapido di, immagini lei, non so, riviste stampate da consegnare al distributore, dalla stamperia, e tante volte sono in centro storico, è un cartone solo, le tocca prendere l'auto, pagare il permesso per accedere, consegnarlo al cliente, al commerciante, casomai sono dei volantini che lui vuole distribuire. E poi c'è proprio, diciamo, una fetta di logistica vera e propria, per definizione, quindi grandi corrieri, che potrebbero risolvere, come stanno già facendo, diciamo così, le consegne nel vero centro della città, creando delle piattaforme, diciamo, ai bordi di una ZTL o di un'area pedonale, trasferendo queste merci, questi scatoloni, ma anche delle buste, insomma, lei può immaginare quello che vuole. Quindi merci con delle biciclette da trasporto. Cycologistic.eu, il sito, ci sono città coinvolte: Italia, Inghilterra, Austria, Bulgaria, Belgio, Danimarca, Germania, insomma tutta l'Europa che si sta concentrando su questa piccola rivoluzione metropolitana. Grazie davvero a Michele Ferrari e buona pedalata. Anche a lei, grazie. Buona giornata. Grazie. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa, ci raggiungerà Ascanio Celestini. Europost-it. La mobilità ti fa vincere un iPad. Dite cosa vi piace della mobilità europea e vincete un iPad mini. La rete Europe Mobility ha lanciato un sondaggio sui vantaggi di viaggiare e lavorare all'estero. Il sondaggio è rivolto a tutti coloro che hanno vissuto un'esperienza di mobilità nell'ambito dei programmi di istruzione e apprendimento dell'Unione Europea, Comenius, Leonardo, Grundtvig ed Erasmus. Il sondaggio comprende domande aperte e risposte a scelta multipla ed è pensato per misurare l'impatto dell'esperienza di mobilità a livello personale, educativo e professionale. Volete dire la vostra? Andate su europemobility.tv. Chi contribuisce ha la possibilità di vincere un iPad mini. L'altra Europa. C'era una volta un piccolo paese. Questo piccolo paese era governato da un piccolo governo e nel piccolo governo della piccola prima repubblica di questo piccolo paese c'era stato sempre lo stesso partito che aveva governato per molti anni in questo piccolo paese lontano. Però diciamo che questo partito finì male perché erano tutti mafiosi e corrotti, infatti sarebbero dovuti tutti quanti finire in galera, però quella volta non finire in galera perché preferirono andare a cena fuori dallo zozzone, che infatti è meglio andare a mangiare dallo zozzone piuttosto. L'avrete che riconosciuto, lui è Ascanio Celestini, oggi ospite all'altra Europa, di ritorno da Bruxelles, dove per l'appunto ha messo in scena il piccolo paese e non solo, è stato premiato anche dalla critica teatrale belga per lo spettacolo Discorso alla Nazione. Buongiorno Ascanio, benvenuto all'altra Europa. Buongiorno a voi. Buongiorno a te. Oggi col programma siamo stati molto a Bruxelles per vari motivi. Con che sensazione sei tornato a questo giro? Com'è stata l'esperienza? Beh, insomma, diciamo che Bruxelles è una città complicata, dove vivono molte persone di molti paesi diversi, per cui per noi, diciamo, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, Bruxelles è una cosa sola, insomma, in realtà poi lì è un insieme di tante cose. Io stesso ho fatto spettacolo al Teatro Nazionale, che però è il Teatro Nazionale di lingua francese, c'è anche un Teatro certo. Nazionale di lingua fiamminga. Bruxelles nascerebbe come città fiamminga, ormai non è più una città né fiamminga né francese, ma una città europea, per cui c'è un clima, diciamo, abbastanza complesso, articolato. Mm-hmm. Hai messo in scena il piccolo paese, credo con sovrattitoli e traduzione in francese, vero? O traduzione diretta, è una formula. Mm-hmm. Entrambe le cose, perché io sono stato le prime volte in Belgio, in Francia, con gli spettacoli 10 anni fa. All'inizio andavamo soltanto con la sottotitolatura, la sopratitolatura, poi ho incominciato ad andare in scena con altri attori che traducevano in scena, stando in scena insieme a me. Spesso siamo andati con Patrick Bébé, che è un regista, attore regista belga, e invece l'altra sera siamo andati con Christophe Mileschi, che in realtà è un professore di letteratura italiana all'Università di Parigi, però è anche e soprattutto un traduttore. Certo, con il piccolo paese ieri e con anche Discorso alla Nazione, che è stato appunto premiato, tu racconti tanto della nostra Italia, della nostra società, ma questa società ormai è un respiro europeo. Ti accorgi mentre sei in scena a portare i tuoi testi che di fatto stai raccontando l'Europa? Sì, per tanti, diciamo, per diversi motivi. All'inizio io inizio a lavorare con questo attore e stavo curioso perché noi abbiamo vinto il premio come miglior spettacolo belga, testo e regia di Ascanio Celestini, con David Murgia, musica di Carmelo Prestigiacomo, per cui insomma già questo sembrava il miglior spettacolo d'Italia, non in Belgio. Praticamente non c'era un nome francese neanche, insomma, perché Carmelo Prestigiacomo, come si sente, ha discendenze italiane, in particolare siciliane. Io sono romano e David Murgia ha i genitori, la madre spagnola e il padre il paese italiano, per cui insomma, già questo racconta un po' di quello che succede in Europa, insomma. E poi, nonostante noi fossimo partiti da racconti che io faccio in Italia, che ho fatto in Italia, da martedì torno a Genova con i miei discorsi alla Nazione, e nonostante tutto questi sono stati percepiti per niente come racconti italiani, ma come racconti, diciamo, che parlano dell'Occidente. Ma in un certo senso l'Italia, nel bene, nel male, più nel male forse che nel bene, è un po' un esempio per l'Occidente. Ce lo dicevano proprio questi giorni che facevamo incontri tra Bruxelles e Liegi. Dice, beh, l'Italia è un po' un laboratorio, quello che succede in Italia poi qualche anno più tardi succede anche in Europa. Mm-hmm. Quindi insomma il piccolo paese è quasi anteprima della piccola Europa, a volte è troppo piccola questa Europa. Ma tu quando sei sul palco e di fatto racconti le mille contraddizioni anche del nostro paese e guardi l'Europa, come la guardi? Con speranza, con rassegnazione? Ci credi in questo progetto europeo tu? Ma guarda, credo, adesso dico una banalità, sembra un francescano, cioè credo nelle persone, negli individui, questo sì. Per esempio proprio a Liegi, insomma, è una città dove ancora oggi cammini per strada ed è molto probabile che tu senta qualcuno che parla italiano, vai nei negozi, nei ristoranti, molte persone, anche se non... magari sono stati in Italia una volta, due volte, però i nonni erano italiani, o comunque qualcuno, chi va lì parla italiano. C'è un bar che noi chiamavamo il bar dei siciliani, dove praticamente c'è la televisione accesa, che la televisione italiana, soprattutto le partite, quando ci stanno le partite si riuniscono lì, la signora fa i panini, mangiano e guardano la partita, ma insomma è una città molto italiana, però italiani ovviamente arrivati lì dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Adesso c'è una nuova emigrazione e proprio a Liegi abbiamo incontrato un gruppo che si chiama La Comune Belga, che sta cercando di organizzare questi italiani che arrivano in Belgio, e come i loro nonni non parlano francese, non sanno dove andare, per cui c'è diciamo un mondo che si muove, e soprattutto persone che si muovono per cercare di farlo girare bene, insomma, questo mondo. Dall'altra parte c'è, come hai detto tu, la piccola Europa, cioè l'Europa che si è chiusa, la fortezza Europa. Nei giorni in cui noi facciamo il nostro spettacolo, insomma, che non è di rilevanza mondiale, c'è Giusi, la sindaco di Lampedusa, era andata a parlare con Schulz, insomma, proprio per chiedere che questa Europa non sia troppo fortezza, che non sia troppo chiusa. Mm-hmm. Lasciate che vi chiami cittadini, anche se tutti sappiamo che siate sudditi, ma io vi chiamerò cittadini per risparmiarvi un'inutile umiliazione. Questo è un passaggio del tuo discorsi alla Nazione. Questo è anche l'anno della cittadinanza europea. Forse questo concetto di cittadinanza europea è ancora tanta strada da fare. Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo riuscire a non perdere il nostro rapporto con il nostro territorio, senza che questo territorio appunto diventi troppo piccolo. Però appunto diciamo strutture come Frontex che pattugliano coste, confini, che fermano la gente, gli stranieri negli aeroporti, che entrano nei centri, nei CIE, non sappiamo bene quello che fanno, rendono questa Europa davvero piccola, stretta, per cui dobbiamo cominciare a pensare che l'Europa può essere quella che è stato, ciò che è stato il Mediterraneo qualche secolo fa, insomma, un incrocio, un crocevia e non un mare chiuso. Dove la cultura, insomma, deve giocare un ruolo da protagonista, e tu lo fai quotidianamente col tuo lavoro. Grazie davvero ad Ascanio Celestini e complimenti per il premio anche ricevuto dalla critica belga. Ciao, buon lavoro. Grazie Ascanio. Ciao, ciao, ciao. Grazie anche a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina che con me ha scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi è la parte tecnica, al regista, la prima volta che lavoriamo insieme, Gianmarco Ferrorato, ok, che ringrazio e mi chiedo scusa per non essermi ricordato il nome, ma questo è il bello della diretta. Radio24.it per scaricare le puntate in podcast, oppure ci trovate sui social network, appunto il mio nome è Federico Taddia, oppure Euronet Plus R24. Ancora buon sabato, l'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.